E come sempre a quest'ora al sabato del villaggio è il momento del nostro gastronauta, lo sappiamo è un periodo di saloni e mentre noi siamo al Salone del Mobile si è appena concluso Vinitaly. Radio 24 è stata lì e c'era appunto il nostro gastronauta che la scorsa settimana ci aveva promesso un reportage ed eccolo qui, Davide Paolini. Ciao Marta, ecco, ci eravamo rimasti d'accordo che io avrei fatto una riflessione dopo aver assistito al Vinitaly che tra l'altro compiva 50 anni, quindi sicuramente tanti anni di storia, come sono gli anni di storia del consorzio del Chianti Classico. E qui ho con me il presidente del consorzio Chianti Classico e gli voglio chiedere, ma 300 anni è sempre di moda il Chianti Classico? Ma noi siamo usciti con questo slogan 300 anni e neanche una penna bianca. Evidentemente una denominazione che sta andando molto bene grazie a quelli che sono stati prima di noi, ma soprattutto grazie a questi ultimi 15-20 anni dove veramente i produttori di Chianti Classico hanno fatto cose gregge e oggi stiamo vivendo un momento molto positivo. Ecco, questo momento positivo che mi dicono lo riscontrate nella ristorazione? Sì, il Chianti Classico è un vino soprattutto venduto nella ristorazione e finalmente in Italia si inizia a risentire una certa richiesta di Chianti Classico rispetto a qualche anno fa e questo ci fa molto piacere. Per fortuna l'estero in questi anni di difficoltà sta tirando molto bene, ma la cosa importante per noi è anche questa ripresa che sentiamo in Italia. Ecco, ma voi siete andati incontro alle nuove esigenze del consumatore o il consumatore che voi mantenendo inalterato il vostro prodotto è venuto incontro a voi? Ma diciamo che il Chianti Classico piano piano si è leggermente evoluto. Ultimamente soprattutto c'è questa voglia, questa idea di tutti i produttori di scommettere sempre di più sul Sangiovese e grazie ai nuovi vigneti piantati ormai negli ultimi 20 anni il Chianti Classico sicuramente è un vino molto più legato al territorio, è un vino di grande eleganza, di grande freschezza. È cambiato un pochettino, ma anno dopo anno senza farsi tanto accorgere. Oggi evidentemente è un vino che piace molto, che va forse un pochettino fuori dai canoni, perché sappiamo perfettamente in alcuni paesi, soprattutto i nordamericani, che stanno andando sempre sulle richieste di vini un po' più, diciamo, facili da bere, però ecco, il Chianti Classico sta vivendo un momento di grande eleganza e questo piace molto al mercato. Ecco, andiamo da 300 anni invece a un consorzio molto giovane che sicuramente sta crescendo. Si è parlato appunto di Nord America, dove sembra che il rosa stia veramente imperversando. Abbiamo con noi Angelo Peretti, che è direttore del consorzio Bardolino, è vicino Chiaretto. E allora, cioè, il consumatore va incontro a rosa, ma cosa c'è stato? Perché diciamoci la verità, la tendenza degli anni passati era di vedere il rosa come un qualcosa che il consumatore vedeva con sospetto, magari pensava che fosse il vino bianco mescolato col vino rosso. Era considerato un mezzo sangue, un mezzo vino, anzi se ho visto in una libreria antiquaria un bellissimo librino che aveva come titolo I vini mezzo colore, era considerato un mezzo colore, no, oggi devo dire grazie alla Provenza e grazie alle grandi capacità dei produttori provenzali di rappresentare l'identità territoriale loro con vini di grandissima eleganza e identità, ci hanno segnato la strada e ci hanno fatto capire che se si vuole affermare un vino rosato bisogna assolutamente descrivere dentro una bottiglia di vino rosato il proprio territorio. Noi abbiamo cominciato a descrivere le colline moreniche fatte dai ghiacciai sul lago di Garda con questo sale tipico di queste colline moreniche, abbiamo abbassato il colore andando in cerca del colore della Corvina Veronese che è molto povero, molto pallido sul lago di Garda e il mercato ci ha premiato, ma soprattutto abbiamo aperto mercati nuovi come la Scandinavia, gli Stati Uniti, il Canada e in 6 anni siamo passati da 4 milioni a 10 milioni di bottiglie vendute con il 30% di incremento di prezzo. Credo che quest'anno ci assisteremo intorno ai 12 milioni di bottiglie. Beh, tu scrivi anche, fai anche giornalista, c'hai un blog che è molto seguito. Allora, guardando, tu avrai girato sul Vinitaly, diciamo tra gli stand, cos'è che emerge? È il sud che mi pare che emerga ultimamente, cioè che le tendenze, le grandi sorprese siano da trovare magari in regioni che un tempo sì erano note ma per uno o due produttori. Ad esempio l'Irpinia sta venendo fuori. Il primo giorno di Vinitaly io ho cercato di entrare in Irpinia, appena entrato alle 9:30 era già tutto pieno. Posso dire, sì, è il sud, ma se mi permetti è il sud di quota. L'Etna, Vesuvio, l'Irpinia, le zone montane del sud che a mio modo di vedere, ma è un'interpretazione personalissima, riescono a coniugare la grande personalità, il grande quasi nervosismo dei territori meridionali con le freschezze, permettimi di dire, altoatesine quasi, no? E sono vini di una modernità straordinaria, raccontando i loro territori con una fedeltà assoluta. Soprattutto il Fiano. Il Fiano di Avellino e soprattutto il Fiano di quota, cioè il Fiano delle zone più esposte, ma è lo stesso discorso grosso modo dell'Etna, no? Si sta andando alla ricerca di questi vini dell'Etna, rossi o rosati, molto scarichi di colore, molto freschi, molto acidi, e sembra quasi un enclave ipersettentrionale nel sud più assoluto d'Italia. Presidente, lei è anche imprenditore di un'azienda molto importante, non ha mai pensato di andare al sud? Noi abbiamo delle collaborazioni al sud, ma non come produttori, ma siamo distributori di una piccola realtà di Fiano, però della Campania, dell'Irpinia, e stiamo lavorando molto bene, si chiama Chialupa, e siamo molto contenti della qualità che producono e stiamo avendo dei buoni successi in Italia. Ecco, per aggiungere, volevo dire che sicuramente è da alcuni anni che molte regioni del sud stanno lavorando molto bene e secondo me questo ha aiutato moltissimo la crescita del vino italiano nel mondo, perché fino a qualche anno fa, negli anni primi anni 90, c'era il Piemonte, c'era la Toscana, c'era il Veneto, c'era qualcosa in Friuli. Oggi questa importanza di tutti i vini italiani prodotti in quasi tutte le regioni italiane, secondo me ha aiutato moltissimo a far crescere l'immagine del vino italiano nel mondo. Ecco, vede qualche altra regione, diciamo, ha visto durante il Vinitaly qualche altra regione che l'ha impressionata, ha assaggiato qualche vino, sì, in particolare? Ho assaggiato degli ottimi vini dalla Sardegna, Sicilia, vabbè, vado abbastanza spesso in Puglia, e diciamo che ci sono delle bellissime realtà. Ecco, anche la Puglia ho visto che ci sono vini probabilmente fatti allo stile un po' più moderno, però stanno riscuotendo dei successi incredibili, impensabili fino a qualche anno fa. Ecco, io c'ho un vitigno pugliese che vedo che è sempre dimenticato, perché si parla di Negromaro, e io il Nero di Troia, io ho una passione particolare per il Nero di Troia, però ancora non ho visto questo vitigno assumere un ruolo principale sul mercato con una produzione interessante. Come si può spiegare questo? Secondo me ce l'avrà il futuro, il Nero di Troia. Noi da alcuni anni che stiamo seguendo alcuni produttori e secondo me avrà un momento molto felice. Probabilmente adesso c'è stato il grande boom del Negramaro, del Primitivo soprattutto, adesso sta andando moltissimo, ma il Nero di Troia io li ho assaggiati tanti e sono veramente un vino di tutto rispetto. Vediamo un po' come andrà il futuro. Il Nero di Troia mi ricorda un po' quello che è successo col Nerello Mascalese, perché prima in Sicilia tutti chiedevano il Nero d'Avola e pochissimi il Nerello Mascalese. Poi è stato scoperto un territorio, in particolare quello dell'Etna, pam, è partito. Io penso che possa succedere anche col Nero di Troia. Sono un fan del Nero di Troia, per questo credo che sia un vitigno che debba essere valorizzato, ma vedo che anche gli stessi pugliesi non ci credono molto su questo vitigno. Ma direi che ci credono di più i produttori fuori dalla Puglia. Io, parlando con molti produttori anche nel Veneto, noto una grandissima attenzione a questo vitigno. Lo si sta studiando da parte dei produttori delle altre zone. E se permetti, Davide, probabilmente questo va incontro anche a quello che è un po' la divaricazione che sto notando nel mercato internazionale. All'estero ti chiedono se il tuo vino è stile Cabernet o stile Pinot Nero, se è stile Bordeaux o se è stile Borgogna. Cosa intendono? Intendono, tu vuoi colore e concentrazione o vuoi colore più scarico e maggiore eleganza, maggiore finezza? Io credo che il mondo dei bevitori di vino si stia bipolarizzando e credo ci sia spazio per questi vitigni autoctoni che riescono a dare grandi vini non necessariamente attraverso diciamo così, forzature in vigneto in cantina, insomma, lasciandoli andare per la loro strada. Oggi c'è spazio, mentre fino a pochi anni fa o facevi un vino rosso iperconcentrato oppure c'era veramente poco spazio sui mercati. Io vedo crescere questa doppia prospettiva. Ecco, fasce di prezzo è importante, magari i nostri radioascoltatori sono sempre interessati a questo. Cioè, fasce di prezzo oggi sono rimaste, non dico quelle di 300 anni fa, quelle vincenti, ma sicuramente negli ultimi anni anche il successo di fasce di prezzo diverse rispetto al passato c'è stato, credo anche per il Chianti stesso. Sì, il Chianti Classico, sì sì. Diciamo, il Chianti Classico si posiziona su un prezzo, sono tanti i produttori di Chianti Classico e molte aziende si posizionano su prezzi un po' differenti, dipende da tanti motivi. Comunque diciamo che oggi si può bere un grandissimo Chianti Classico senza svuotare troppo il portafoglio, questa è la cosa importante, quindi si va sempre di più su dei vini caratterizzati da un rapporto qualità-prezzo assolutamente validi. Per tornare sul Nero di Troia, io se fossi un produttore piemontese ci scommetterei, questo tanto per dire. Quindi lei dice produrlo in Piemonte o no, un produrlo, imprenditore produrlo, che vada in produrlo Puglia? Produrlo dove bisogna produrlo, nella zona della Puglia assolutamente. Ma vedo anche, ho visto abbastanza molto, molto vissuto, molto pieno anche l'area dei vini calabresi. Pare che anche in Calabria, devo dire, ci sia un risveglio, ci siano nuove realtà e quindi mi sembra molto interessante anche quell'area lì. Ma sì, è interessantissimo e anche lì si sta tornando a produrre in particolare il Gaglioppo e il Magliocco secondo la loro naturale vocazione, cioè rinunciando alle forzature che abbiamo avuto negli anni 90, i primi anni 2000. Ma devo dire che in Calabria, soprattutto nella zona del Cirò, sto notando un grande orgoglio di zona da parte dei produttori. Ho letto sul blog di uno dei produttori di punta di quel territorio che lui ha rinunciato ad andare alle manifestazioni dei cosiddetti vini naturali per essere nel padiglione del Cirò insieme con gli altri produttori del Cirò, perché la denominazione è il valore prioritario prima del proprio posizionamento aziendale o delle proprie filosofie. Io ci credo moltissimo, credo che l'identità territoriale sia un valore straordinario e il primo segnale dell'identità territoriale è la denominazione di origine. Beh, devo dire che hai parlato di vini cosiddetti naturali, io li chiamo così, ormai sono una realtà dentro al Vinitaly. Anche quest'anno il numero è aumentato, come è aumentato il numero dei vini bio, ma soprattutto quello che mi ha colpito è di vedere molti stand dove c'è scritto vino vegano. Ecco, io non so cosa, sì, manca qualcosa a sto vino che non viene introdotto perché deriva sicuramente da diciamo derivati animali. Però non lo so, bene, benvenga tutto, sicuramente libertà per ognuno, ma in bocca io non ho sentito la differenza. Non so se appunto sia semplicemente, diciamo, dal punto di vista dell'etichetta per garantire chi lo beve quindi di non trasgredire la propria filosofia, però diciamo che non ho sentito né sapori né profumi particolari. Ora Marta, ti ripasso la linea e ci sentiamo il prossimo sabato. Grazie ai nostri due interlocutori. Grazie. Grazie a voi.